America 24 di Mario Platero. Today I am proud to announce the appointment of an experienced public servant, a devoted patriot, my friend, fellow Chicagoan, Bill Daley, to serve as my chief of staff. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Barack Obama è andato sul sicuro per la carica di capo di gabinetto, la posizione direi di maggior potere alla Casa Bianca, ha scelto ieri William Daley, Bill Daley, un politico navigato di 62 anni che fu segretario al commercio nel secondo mandato di Bill Clinton, che guidò la campagna elettorale di Al Gore, che ha fortissimi rapporti con il mondo degli affari. Ecco, questa direi è la svolta più importante di questa nomina, e non tanto perché Bill Daley è il capo della regione del Midwest JP Morgan Chase, dunque di una delle banche più importanti d'America, di una delle banche più importanti del mondo, ma perché per questa banca lui alla fine rappresenta gli interessi di lobby. Diciamo che non è JP Morgan che esprime Bill Daley, ma è Bill Daley che in qualche modo ha dato una grossa mano a JP Morgan in momenti molto difficili. Quando fu segretario al commercio ha avuto rapporti con la grande maggioranza delle più importanti aziende americane, è stato anche amministratore delegato della SBS Communication, una delle più importanti compagnie di comunicazione americane nel Texas, e dunque è un uomo che ha vissuto la parte politica, viene tra l'altro dalla dinastia dei Daley, la dinastia di Chicago, il fratello è il sindaco dimissionario della città, il padre fu a sua volta sindaco, ci furono deputati, e dunque esprime sia la parte politica che quella degli affari, è l'uomo ideale per dialogare con il Congresso repubblicano, è un politico navigato, è un diplomatico, e in qualche modo questa è la conferma più radicale, direi, della svolta più importante che ha impresso alla sua amministrazione e a questi due anni che lo attendono prima delle elezioni del 2012. Le missioni sono duplici per Daley: appunto stabilire un buon rapporto con il Congresso repubblicano, portare, garantire il secondo mandato a Barack Obama. Che la nomina sia stata accolta bene in campo repubblicano, direi, lo dice semplicemente la dichiarazione di Tom Donahue, che è il presidente della Camera di Commercio americana, un repubblicano doc, anzi super doc, ha fatto la guerra a Barack Obama, ha fatto campagne, spot elettorali in televisione contro i democratici e contro la proposta di riforma sanitaria di Barack Obama. Ebbene, ecco che cosa ha detto Tom Donahue. È una nomina molto forte. Bill Daley è un uomo di grande statura, di grande esperienza di governo, di business, di negoziati commerciali, di affari globali. Beh, forse davvero a Washington si comincia ad aprire un'era di collaborazione. Sembra una meravigliosa canzone pop, lo è, una meravigliosa, bella canzone pop, ma chiude poi con uno spot pubblicitario per Estée Lauder. Vi ho parlato di Bill Daley, di uomini d'affari americani, della pace fatta fra l'amministrazione Obama e il mondo degli affari, o comunque in via di divenire. Bene, lasciate che vi parli di un uomo d'affari italiano in America. Non c'è soltanto Sergio Marchionne, che guida un'importante azienda americana, certamente è il più conosciuto, ma c'è un altro italiano, anzi un italiano che è cresciuto, nato a Napoli, poi è cresciuto in una grande multinazionale come la Procter & Gamble, che guida un'altra importante azienda americana, appunto la Estée Lauder. Si chiama Fabrizio Freda, è qui da un paio d'anni e ha trasformato questa azienda sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista dell'impostazione del business globale. E in un periodo di crisi ovviamente non è necessariamente facile, ma devo dire i risultati ci sono stati, al punto che il titolo Estée Lauder, pensate, ha chiuso il 2010 con un aumento del valore del titolo del 64%, ha chiuso l'anno vicino a quota 80, nei giorni scorsi, ieri era quota 82,50, un balzo del 64% in un anno, devo dire, rende onore a chiunque abbia portato avanti una trasformazione manageriale. Ecco, abbiamo ai microfoni di America 24 Fabrizio Freda, l'ho intervistato anche sulle pagine del Sole 24 Ore, a lui chiedo qual è intanto il suo segreto. Il mio segreto è sicuramente 20 anni di lavoro intenso e di training in un'azienda americana come la Procter & Gamble, estremamente disciplinata, e una lunga esperienza internazionale di management e di disciplina. Ma l'altra parte del mio segreto è probabilmente proprio l'equilibrio fra questo training in disciplina e le mie origini napoletane, vale a dire questo equilibrio fra lo spirito creativo e di amore della vita, che è la parte positiva di Napoli, con la disciplina e, devo dire, l'etica estremamente elevata del lavoro che qui in America spesso è ben rappresentata. C'era qualcuno preoccupato dal fatto che lei venisse dal mercato del mass market, così Procter & Gamble si occupa di detersivi, lei ha seguito alcuni dei prodotti, per esempio mi pare i crackers a livello mondiale. Ecco, è un problema arrivare dal mass market in un'azienda del lusso come Estée Lauder? I valori di Estée Lauder sono nell'area del prestigio, del lusso, dell'alta qualità e quindi dell'esclusività, ma ritengo anche che chi ha lavorato nel MAS e quindi ha sviluppato conoscenze tecniche molto sofisticate e raffinate di management finanziario, di marketing, se ha l'umiltà di ascoltare e di comprendere quali sono i modelli di business diversi che sono necessari in questa azienda, può poi applicare quello che ha imparato a questi modelli e avere dei risultati straordinari. Perché tra l'altro il mondo del lusso, del prestigio, può beneficiare di un modello di business più sofisticato, e questo accadrà nei prossimi anni perché il mondo del lusso e del prestigio sta diventando prima di tutto più globale, e questo richiede nuove tecniche di management, e inoltre sta diventando più competitivo, e quindi per definizione l'aumento della competitività crea anche un aumento della sofisticazione. Ci può dire come nasce la creatività? Estée Lauder ha bisogno di creatività, lei forse ha avuto un approccio diverso. Ecco, qual è la sua visione della creatività in un'azienda come Estée Lauder? La creatività in genere nasce da due cose. Esistono persone con un dono, che hanno una creatività di istinto, un dono di immaginare una cosa che se nessun altro aveva pensato prima. Ma ci sono anche persone che creano mettendo in connessione punti che nessun altro ha connesso prima, connettendo conoscenze che prima non erano mai state connesse da nessun altro. Per creare in questa seconda maniera c'è bisogno che la conoscenza venga portata in maniera disciplinata a disponibilità di tutte le persone che prendono decisioni in azienda. Bene, allora direi di affrontare adesso una questione un po' più impegnativa. Cioè, ci parli, e questo credo che sia molto interessante per tutti perché si tratta di trasformare alla fine un'azienda, ci parli del suo cambiamento strategico. Questa azienda è nata con la creazione di tanti brand, e ogni brand era stato gestito per anni quasi come un'azienda separata. Oggi abbiamo due grandi cambiamenti di direzione. Il primo è l'azienda si sta integrando molto di più, sta integrando i brand e sta integrando la maniera di gestione dei paesi, creando delle regioni. Quindi questo è un cambiamento molto molto importante che stiamo facendo. Il secondo è il fatto che non solo continuiamo a portare al mercato mondiale i prodotti americani più di successo, ma iniziamo anche a sviluppare prodotti e idee e creatività in altri paesi e portarli in giro per il mondo. Io sono convinto che una vera azienda globale è un'azienda che può prendere il meglio ovunque esso sia nel mondo e portarlo al resto del mondo. Ed è questo il cambiamento strategico a cui sono dedicato, che a mio parere ha più valore. Dottor Freda, le donne rappresentano la parte importante del vostro mercato, il vostro mercato. Ecco, ci può fare un confronto tra il futuro e le donne? Dunque, il vostro mercato guardando al futuro in relazione alle donne? Le donne nel mondo, nei prossimi 5 anni solamente, avranno 3 trilioni di dollari disponibili per spendere di più. E che le loro 3 grandi priorità sono alimentare, moda e cosmetica di lusso. E e tutta questa enorme quantità di reddito che si sta sviluppando a disposizione delle donne nel mondo è dettato da tre grandi fenomeni. Il primo è che moltissime donne nel mondo stanno entrando nel mondo del lavoro, quindi immagini in Cina, in Brasile, in Russia e così via. Il secondo punto è che si sta chiudendo meritatamente il gap dei salari fra uomini e donne nel mondo. Terzo elemento importante, le donne vivono di più e quindi ereditano a un certo punto della vita. Se mette tutti questi fenomeni insieme, il calcolo di quanto del reddito disponibile mondiale, soprattutto nello sviluppo degli emerging markets, quindi dei mercati emergenti, sia nelle mani di quello che le donne del futuro vorranno, è enorme. Beh, dunque, la sua è stata, immagino, un'esperienza straordinaria, quella di venire qui a New York e vivere direttamente in territorio americano la gestione di un'azienda globale. Ecco, se può dare un messaggio all'Italia, qual è questo messaggio? Siamo troppo rigidi? C'è poca flessibilità? Bisogna essere più flessibili, bisogna guardare al cambiamento, bisogna essere in grado di dirigere il cambiamento in maniera strategica e quindi bisogna convergere le forze positive del paese in una direzione comune. Questo paese, devo dire, l'etica del lavoro è straordinaria e la capacità di convergere forze velocemente nella direzione di costruire valore, di un cambiamento, di rispondere a una crisi è molto elevata. Noi dobbiamo imparare a farlo, imparare a focalizzarci di più sull'interesse comune, sull'interesse del paese e sulle forze positive di sviluppo. Per finire, dottor Fresa, in Italia, sempre restiamo in Italia, come siamo posizionati dal punto di vista competitivo? Quello che vediamo qui in America non è la parte più importante. La parte più importante, più allarmante, viene dall'Asia. L'Asia si sta sviluppando in una maniera straordinaria, sarà un competitor formidabile per l'Europa e ovviamente anche per l'Italia nel futuro. Se non riusciremo a creare un sistema paese, un sistema aziendale in grado di affrontare questa concorrenza, i prossimi anni saranno molto molto duri e per lungo periodo. Quindi bisogna diventare più competitivi, non c'è nessun dubbio su questo, e le aziende italiane devono diventare più globali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre alla nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beck ha pubblicato un remix dell'ultima canzone di Lick Lee, Get Some. Ecco il nuovo lavoro, la nuova opera di questo musicista e produttore losangelino, Lick Lee, Get Some. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento lunedì. Goodbye and get going! America 24.